later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non conosce pause, K e Drago ricevono strani messaggi dal mondo fuori di lì. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Scusa, prova a telefonare, Drago, non lo so, che ore sono? Le ore sono mezzanotte, telefonino apparentemente va, però se provi a chiamare... C'è campo. Campo c'è, però vedi che ma cade subito. Ma campo? Perché il mio è di un'altra compagnia. Scegli bene le compagnie tu, prima di sì, concludere il contratto. Sono qui con te. Allora. Niente, il problema è che tu chiami e cade subito. Però cosa succede? Ti arrivano i messaggi? I messaggini arrivano però. È sempre così, eh. È Cristina Cruz. La conosci? No, io no, arrivano a te i messaggi. Nemmeno io conosco. Io. Cosa dice Cristina Cruz? Il problema è che io ricevo le mail sul telefonino, quindi consiglia delle pillole per la longevità. Pillole per la longevità? Sì, pillole che fanno Cruz vivere più a lungo. Sì. Cioè, pillole per la longevità. Cosa devo dirti di più? Si spiega anche da solo. Senza no, tanto, dire pillole per vivere più a lungo è come dire... Il farmaco dei sogni, quello a cui hanno lavorato i ricercatori per secoli. Drago, se davvero esistesse la pillola per la longevità, secondo te sarebbe venduta clandestinamente da una Penelope Aguilera qualunque? Chi è Penelope Aguilera adesso? Ma che ne so, quella che vende le pillole per la longevità. Cristina Cruz vorrei ma dire. Ma che ne so, sono tuoi messaggi. Ah, un altro, sei richiestissimo. Vedi? Chi è stavolta? Stavolta è Britney Klein. Britney Klein, ma che nomi sono? Nomi americani generati da un software craccato. Ah. E Britney Klein vende una pomata per l'allungamento del pene, attenzione. Oh, che bello. Dice che i risultati saranno sorprendenti, ma forse la sorpresa consiste nell'inefficacia della pomata, cioè il pene rimane com'è e tu ti sorprendi, non se ti sorprendi. Oh mio Dio, ma è gigantesco! Ma scusa, ma secondo te se uno si spalma quella pomata, che ne so, sul mignolo della mano, gli si allunga il mignolo? Forse sì, sì. E sul braccio gli si allunga il braccio? Come quello dei Fantastici 4? Reed Richards, aka Mr. Fantastic. Sì, e spalmato sulla testa di un calvo lo trasforma in Ninetto Davoli, aka Starsky di Starsky Hutch. Ma si dice aka o aka? O alias, forse è meglio alias. Rifacciamo? È troppo tardi. Mezzanotte, un'ora sospesa che non poggia su nessuna cosa. Mezzanotte, l'ora dell'attesa. Ecco perché adesso siamo qui. You are the cattle and we are the keepers. La fabbrica di polli. Insider training. Finalmente. If you're tired of waiting. Insider training. Tutte le intercettazioni telefoniche che avete sempre sognato di ascoltare. Get your insider training. Insider training. Sono in galleria, tra un po' potrebbe cadere. Era per sapere quando ci sei. Cosa? Ascolta, no, visto che non ci siamo più sentiti, volevo sapere, saldare... Sta andando... Sì. No, dimmi, qual è il problema, scusa, allora? Saldare... Beh, ma anche tu hai saldato, scusa, cioè, il punto è che, visto che non ti ho sentito, presumevo che poi non ti servissero, che non ci fosse urgenza, tutto qua, perché poi una volta che ho chiamato eri via a Milano, quindi ho detto qua non lo trovo più. Pronto, Manzo? Pronto. La fabbrica di polli. Da noi vige la regola che o è così oppure lì c'è la porta. I polli non devono pensare. Se pensano vanno in sbattimento. In sbattimento. Questa è la prima regola della fabbrica di polli. La seconda regola è... I polli devono produrre. Carne o uova non importa, basta che producano. Se stanno lì a vivere e basta, non va bene. Che sbattimento. La terza regola è... I polli possono allevare altri polli. Altri polli. Tutti in sbattimento. Altri polli. Allora la situazione ideale è questa. Polli che non pensano e che però devono produrre, che producono allevando altri polli non pensanti, che producono fornendo uova o carne. Sui polli d'allevamento ne hanno dette di cose, tutte intelligenti, ciniche, amare e vere. Ma nessuno è mai riuscito a far meglio della fabbrica di polli. Se cominci a mettere in dubbio il dogma che tutti i polli vanno tenuti polli, fai una brutta fine. L'idea di individuo non è più al passo coi tempi. La Cina ha avuto ragione con i suoi miliardi e miliardi di polli gialli. Qui lo sbattimento che non finisce più. Un pollo giallo è un pollo come tutti gli altri. E il mangime dov'è? Solo che è giallo. Qui ogni minuto è uno sbattimento. Ma cos'è? Un altro messaggio? Sì, sai chi è adesso? Caligenia Rochelle. Ma chi? Caligenia Rochelle per degli splendidi patacconi finto Rolex, interessa? No, drago, ma ricevi spam anche sul telefonino. Metti un filtro alla tua casella di posta elettronica. Ma come? Ma un altro? Un altro, sì. Questa ma è drago, Beatrice Cosby. Ma spegni il telefonino. Anche lei ha delle repliche perfette di Rolex e costano, mi sembra, ancora meno di quelle di Caligenia Rochelle. Quindi Caligenia, se vuoi fare un confronto tra... Secondo me il software che genera sti nomi è operativo qui da qualche parte nella fabbrica di polli. Può anche darsi. Guarda, i messaggi non sono veri messaggi, scusa. Non vedi come sono scritti? Sono pieni di refusi, di errori di ortografia, di grammatica. Ma questo non vuol dire niente. Secondo te una che si chiama Caligenia Rochelle sa scrivere bene in inglese? Già me l'immagino. Caligenia Rochelle, reine du Mardi Gras à Nouvelle-Orléans. La regina del martedì grasso di New Orleans. Grazie per la traduzione. Peccato però che non esista nessuna Caligenia Rochelle in tutti gli Stati Uniti d'America. Ma tu sei così sicuro? Hai provato con Google a scrivere? Ma se ti ho detto che tutta questa spam nasce qui dentro ed è tutto finto. Finto. Il nome dei mittenti, l'indirizzo da cui ti mandano i messaggi. Tutto finto, anche i prodotti. Ma non so, i prodotti che vendono forse quelli sono veri. Però sono dei pacchi, dei veri pacchi, drago. La crema che ti fa allungare il braccio è un pacco. Un altro. Ecco. Darian Bird, Chalice. Ma cosa Chalice? Chalice è una... Cos'è Chalice? È una specie di... Non so come si pronuncia. Cialis, non so. Non so è una specie cos'è. Di Viagra, no? È una cosa per... Douglas Gilmore invece software abusivo. Ottimo. Cassandra Harbin porno fatto in casa, interessa? No. E Marcia Antonia Martinez pillole per avere una eiaculazione abbondante. Ma smetti, ma drago, giuro. Drago, smetti. Dick Bickford, diamanti a $5. Kesaya Amarant, una Bibbia in CD ROM. Tutto falso e tutto di pessima qualità. Anche la Bibbia in CD ROM? Anche la Bibbia in CD ROM, c'è solo la copertina in finto legno, però poi è vuota. La fabbrica di polli produce, non chiude, la fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli. Good night, ladies and gentlemen, good night.